Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Nuova intervista, questa volta rimaniamo nella nostra provincia con una band che debutta con il suo primo disco. A voi la parola. Buonasera a tutti, ciao Jean-Luc, sono Kay dei Pull No Punches. Ciao, sono Stefano, batterista. Ciao, Ronnie al basso. Salutiamo anche Alberto che stasera non può essere dei nostri. Siamo pronti per partire. E con i Pull No Punches, una prima parte dedicata ad alcune formazioni rock particolari con grandi influenze soul, jazz and blues. Prima canzone era Long Time Living dal disco Ecology del 1970 dei Rare Earth, band rock soul americana in cui spiccava il batterista e cantante Peter Rivera. Si parla tanto oggi di fusioni tra musica rock e musica nera, ma già da allora c'era chi lo faceva egregiamente e con creatività. Che ne dite? L'unione di più generi è stata la ricetta del successo di molti gruppi storici. Questo probabilmente perché in quel momento ha accomunato più ceti sociali o la cultura del momento. A me viene in mente la fine degli anni 70 con i Police, quando il buon Sting ha unito il rock con il reggae. Questo è solo un esempio naturalmente, ma poi certamente se ne potrebbero fare infiniti, ecco. La storia dei Pull No Punches è recente, anche se voi suonate da tanto tempo. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Ah, noi ci siamo formati nel marzo del 2009. Il nome è un idioma inglese che vuol dire essere franchi, cioè parlare direttamente. Abbiamo pensato che ci rappresentasse al meglio. Perfetto. E allora proseguiamo con i Colosseum, con alle spalle un background jazz and blues. Questa formazione ha scritto alcune importanti pagine uniche nella storia del progressive rock. Nel 1969 esce il secondo disco Valentine Suite e contiene questa portentosa The Kettle. Formazione leggendaria con nomi storici tra cui Dave Greensland all'Hammond e John Heisman alla batteria. C'è chi dice che talenti così non ce ne siano più, voi che ne pensate? Ma probabilmente ce ne sono, però sono tenuti abbastanza nascosti. Generalmente possiamo dire che al giorno d'oggi, come per altri settori, ci sia tanta sopravvalutazione. Pertanto molto è basato sull'immagine e c'è poca sostanza poi alla fine, perché probabilmente vogliono far andare le cose così. Ed è un peccato. Vostre esibizioni, esatto. Vostre esibizioni, so che al momento sono state poche ma significative. Quali le reazioni del pubblico? Ma possiamo riassumerle in due parole: positive e sicuramente sorprendenti. Bene. Visti i risultati, insomma. Concludiamo dunque questa prima parte con i Three Dog Night, band che aveva tre cantanti nelle sue file, raggiunse la fama in America tra il 1969 e il 1972. Non li riascoltiamo dal disco Capture Live at the Forum del 1969 con il loro classico One. Dopo la pubblicità ci ritroviamo per la seconda parte di Rock Legends. Gotta do a song now, Chuck's gonna sing it. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.